Il punto di Stefano Folli. L'impegno riformatore del Presidente del Consiglio è molto apprezzabile e altrettanto vale per il suo dinamismo contrapposto al tradizionale immobilismo della classe politica. E tuttavia, alla lunga, la politica degli annunci in diretta TV rischia di essere controproducente. All'inizio c'è l'effetto novità, poi si sottolinea l'abilità del comunicatore, la sua astuzia, ma arriva il momento inevitabile in cui gli italiani non capiscono più se la riforma di cui si parla è stata già approvata oppure è un progetto su cui non solo il Parlamento ma anche le cosiddette forze sociali devono esprimersi. È il caso della riforma della burocrazia, visto che il relativo testo di legge sarà varato dal governo solo fra un mese e mezzo e poi dovrà passare al vaglio delle Camere. D'accordo, ci sono le elezioni a breve e non si può andare troppo per il sottile, ma l'eccesso di enfasi, quando non è sostenuto da fatti concreti, può essere insidioso. Il miglior politico è quello che realizza e annuncia il risultato del suo lavoro solo a cose fatte.